la frammentaria Gilbert di oggi, ascoltò sorridendo la mia richiesta. Poi si mise a riflettere, prendendo un'espressione seria. E io ne ero felice, perché questo le impediva di fare attenzione a un gruppo la cui vista non avrebbe certo potuto riuscirle gradita. Vi si notava la duchessa di Guermantes in animata conversazione con un'orribile vecchia che guardavo senza poter affatto indovinare chi fosse. Decisamente non lo sapevo. In effetti era con Rachel, ossia con l'attrice divenuta celebre, che nel corso di quel ricevimento avrebbe recitato versi di Victor Hugo e di La Fontaine, che la zia di Gilbert, Madame de Guermantes, stava conversando in quel momento. Infatti la duchessa, consapevole da troppo tempo di occupare la più elevata posizione mondana di Parigi e non rendendosi conto che una posizione siffatta esiste solo nella mente di chi ci crede e che molti dei nuovi, se non la vedevano da nessuna parte, se non leggevano il suo nome nelle cronache delle feste eleganti, avrebbero creduto che non occupava in effetti alcuna posizione, non vedeva più che in visite il più possibile rare e intervallate, e non senza sbadigli, il Faubourg Saint-Germain, che, diceva, l'annoiava a morte, e si concedeva in compenso il capriccio di far colazione con questa o quell'attrice che trovava deliziosa. Nei nuovi ambienti che frequentava, rimasta assai più uguale a se stessa di quanto non pensasse, continuava a credere che annoiarsi facilmente fosse una superiorità intellettuale, ma lo esprimeva con una sorta di violenza che dava alla sua voce qualcosa di rauco. Poiché le parlavo di Brichot, ne ho abbastanza, mi ha scocciata per 20 anni. E quando Madame de Cambremer disse «Dovresti rileggere quel che dice Schopenhauer della musica», lei ci fece notare la frase commentando con violenza «Rileggere è un vero capolavoro, decisamente questa ce la poteva risparmiare». Il vecchio d'Albon sorrise, riconoscendo una manifestazione dello spirito Guermantes. Gilbert, più moderna, rimase impassibile, benché figlia di Swann, come un anatroccolo covato da una gallina. Lei era più laghista. Diceva «Lo trovo talmente toccante, ha una sensibilità incantevole». Dissi a Madame de Guermantes che avevo incontrato il signor di Charlus. Lo riteneva più giù di quanto non fosse, perché i mondani fanno delle differenze per quanto concerne l'intelligenza, non solo fra diverse persone del bel mondo in cui essa è più o meno uguale, ma anche in una stessa persona secondo i vari momenti della sua vita. Poi aggiunse, «È sempre stato il ritratto di mia suocera, ma adesso è ancora più impressionante». Questa somiglianza non aveva niente di straordinario. Si sa che, in effetti, certe donne si proiettano in qualche modo in un altro essere con estrema esattezza. Il solo errore è nel sesso. Errore di cui non si può dire «Felix colpa», perché il sesso reagisce sulla personalità e in un uomo la femminilità diventa leziosaggine, il riserbo, suscettibilità, eccetera. Resta il fatto che nel viso, sia pure barbuto, nelle guance, anche se congestionate sotto i favoriti, certe linee sono sovrapponibili a qualche ritratto materno. Non c'è vecchio Charlus in rovina in cui non si riconosca con stupore, sotto tutti gli impasti del grasso e della cipria, qualche frammento d'una bella donna nella sua giovinezza eterna. A questo punto entrò Morel. La duchessa fu con lui d'una gentilezza che mi sconcertò un poco. «Ah, io non prendo mai partito nelle beghe di famiglia», mi spiegò. «Non trovate che siano una gran noia le beghe di famiglia?» In effetti, se nel giro di 20 anni i conglomerati delle conventicole mondane si disfacevano e si riformavano per l'attrazione di nuovi astri, destinati peraltro ad allontanarsi a loro volta, poi a riapparire, cristallizzazioni e poi sbriciolamenti, seguiti da nuove cristallizzazioni, avvenivano nell'anima dei singoli esseri. Se per me Madame de Guermantes era stata molte persone, per Madame de Guermantes, per Madame Swann, eccetera, un tale era stato un favorito del periodo precedente l'affare Dreyfus, Poi un fanatico o un imbecille a partire dall'affare Dreyfus, che aveva cambiato per loro il valore degli individui e classificato diversamente i partiti, i quali si erano poi ulteriormente disfatti e rifatti. A influire potentemente, aggiungendosi all'effetto delle pure affinità intellettuali, è il trascorrere del tempo che ci fa dimenticare le nostre antipatie, il nostro disprezzo, le ragioni stesse che spiegavano le nostre antipatie e il nostro disprezzo. Se si fosse analizzata l'eleganza della giovane Madame de Cambremer, si sarebbe trovato che era la figlia del commerciante che stava nella nostra casa, Jupien, e che l'elemento in più che l'aveva resa brillante era che suo padre procurava uomini al signor di Charlus. Ma la combinazione di tutto questo aveva prodotto effetti abbaglianti, mentre le cause ormai remote non soltanto erano ignote a molti dei nuovi, ma anche chi ne era stato a conoscenza le aveva dimenticate, assai più attento allo splendore presente che alle passate vergogne, giacché un nome lo si prende sempre nella sua accezione attuale. E l'interesse di queste trasformazioni salottiere consisteva nel fatto che erano anch'esse un effetto del tempo perduto e un fenomeno di memoria. La duchessa esitava ancora, per paura d'una scenata del signor di Germain davanti a Balti e a Mistinguet, che trovava adorabili, ma aveva decisamente Rachel per amica. Le nuove generazioni ne concludevano che la duchessa di Germain, malgrado il suo nome, doveva essere una mezza calza che non aveva mai fatto parte della crema. È vero che per qualche sovrano, la cui intimità le era disputata da altre due grandame, Madame de Germain si dava ancora la pena di invitarli a colazione. Ma costoro, si sa, compaiono di rado, conoscono gente da poco. E poi la duchessa, a causa della superstizione dei Germain nei confronti del vecchio protocollo, perché la gente educata la faceva morir di noia e nello stesso tempo teneva alla buona educazione, faceva scrivere: «Sua maestà ha ordinato alla duchessa di Germain, si è degnata, eccetera, e i nuovi venuti, ignoranti di queste formule, tanto più ne concludevano che la posizione della duchessa fosse mediocre». Dal punto di vista di Madame de Germain, l'intimità con Rachel poteva significare che ci eravamo sbagliati quando la credevamo ipocrita e bugiarda nelle sue condanne dell'eleganza, quando credevamo che rifiutandosi d'andare da Madame de Saint-Hubert non lo facesse in nome dell'intelligenza, ma dello snobismo, e giudicasse stupida la marchesa solo perché questa, non avendo ancora raggiunto il proprio scopo, lasciava vedere d'essere una snob. Ma questa intimità con Rachel poteva significare anche che l'intelligenza della duchessa era in realtà mediocre, insoddisfatta e tardivamente desiderosa, stanca ormai del bel mondo, di realizzarsi, per ignoranza totale delle vere realtà intellettuali e per un pizzico di quello spirito capriccioso da cui signore assai distinte, che pensano sarà follemente divertente, sono indotte a finire la serata in modo, a dir la verità, noiosissimo, andando a svegliare per scherzo qualcuno al quale poi non sanno cosa dire e accanto al cui letto rimangono un minuto nel loro mantello da sera, dopodiché, constatato che è molto tardi, vanno finalmente a dormire. Bisogna aggiungere che l'antipatia, concepita da un po' di tempo dalla versatile duchessa per Gilbert, poteva farle provare un certo piacere a ricevere Rachel, cosa che le consentiva inoltre di proclamare una delle massime dei Germain, e cioè che erano troppo numerosi per sposare le cause, quasi anche per prendere il lutto gli uni degli altri, in dipendenza del «non sono tenuto a», rafforzata dalla politica che era stato necessario adottare nei riguardi del signor di Charlus, giacché, se lo si fosse seguito, ci si sarebbe guastati con tutti. Quanto a Rachel, se si era effettivamente data un gran affare per diventare amica della duchessa di Germain, d'affare che la duchessa non era riuscita a cogliere sotto il disprezzo affettato e le volute scortesie che l'avevano stuzzicata e le avevano ispirato una grande ammirazione per un'attrice così poco snob. Era stato sicuramente, in linea generale, per il fascino che i personaggi del gran mondo esercitano da un certo momento in poi, anche sui bohemien più incalliti, parallelo a quello che costoro esercitano a loro volta sui primi, doppia corrente che corrisponde, in ambito politico, alla curiosità reciproca e al desiderio di allearsi fra popoli che si sono combattuti. Ma il desiderio di Rachel poteva avere una ragione più particolare. Era in casa di Madame de Germain e da Madame de Germain che aveva ricevuto in altri tempi il più terribile affronto. A poco, Rachel l'aveva non dimenticato, ma perdonato. Ma il singolare prestigio che ne aveva preso ai suoi occhi la duchessa non si sarebbe mai cancellato. Il colloquio a cui volevo impedire che Gilbert facesse caso fu d'altronde interrotto perché la padrona di casa cercava l'attrice per la quale era venuto il momento di recitare e che, lasciata la duchessa, comparve ben presto sulla pedana.